Certe volte basta un pensiero, come basta un'istantanea per vedere un panorama. Io stamattina sono stato colpito da questa immagine. Ma che bella famiglia che io c'ho! Perché? Perché avere come familiari, come sì, familiari, tre arcangeli, Michele, Gabriele, Raffaele. Sono fortunato. Michele che ha un grido di guerra, chi è come Dio? Michele che io invoco tantissime volte al giorno e tantissime volte quando faccio esorcismi perché veramente è mandato da Dio, è servo di Maria. Lo chiamo quando faccio esorcismi e mi aiuta. Gli chiedo, Michele, immobilizza questo energumeno. Pam! E quando si mette ancora a scatenarsi, quasi a rovinarmi la poltrona, a rovesciarmela, a farne di tutti, Michele, chi è come Dio? Sono fortunato avere in famiglia uno così. E poi avere Raffaele, medicina di Dio. Raffaele che accompagna Tobia su una strada che non conosce. Amici, bisognerebbe far passare uno per uno gli angeli, gli arcangeli. Abbiamo dei tesori sconosciuti. Andate a rileggervi il libro di Tobia e vedete che bella immagine questo Raffaele. E poi Gabriele. Gabriele vuol dire anche lui fortezza di Dio, è colui che annuncia a Maria, l'annunciatore, che bello. E questi sono solo tre. Poi io ho in questa famiglia una madre. È la Madonna, prima ancora è la Chiesa. Maria è dentro la Chiesa, è madre della Chiesa, ma è figlia della Chiesa. La Chiesa è mia madre. E anche qui riflettiamo troppo poco su che cosa voglia dire tutta la ricchezza dei santi. Ogni giorno ne scopri non uno, 10. Santi che sono vissuti in un paese e la loro conoscenza è limitata a una diocesi, santi che percorrono le strade del mondo, invocati dalla California al Giappone, all'Italia, e sono miei fratelli. E questa chiesa è mia madre, e questa chiesa genera Maria, la madre di Gesù, madre della Chiesa, madre mia. C'è una frase bellissima di San Cipriano, uno dei padri della Chiesa, che dice: non puoi avere Dio come padre se non hai la Chiesa come madre. Ma la amiamo la Chiesa, amici? Io credo abbastanza poco. Perché non sappiamo chi è la sposa dell'agnello, la fidanzata dell'agnello, come ne parla l'Apocalisse. La vidi scendere bella dal cielo come una sposa preparata per il suo sposo. Ed è la mia chiesa. Oh amici, amiamo la chiesa, non lasciamocela rubare da coloro che la insultano, da coloro che la svillaneggiano. perché magari la identificano con un prete che sbaglia, la identificano con un papa che insultano stoltamente, la identificano con le strutture di cui pure è fatta, perché ciascuno di noi ha uno scheletro. Anche se io quando incontro te non incontro il tuo scheletrino, incontro te col tuo sorriso, coi tuoi vestiti. Esprimi la tua personalità coi tuoi vestiti, pensa che bello. Molto più bella una persona vestita che nuda. Uno che è vestito esprime anche col modo con cui si pettina, col modo con cui si atteggia. Questa è la Chiesa, i santi. E infine Dio Padre. Quando parlo, un'altra volta parleremo dello Spirito Santo e di Gesù, ma quando parlo di Dio Padre mi viene in mente il Leopardi, l'infinito. Con le ultime parole, e il naufragar m'è dolce in questo mare. Quelle volte in cui il Signore si degna di darmi la consolazione di guardare il Padre e di vedere come tutta la paternità e la maternità delle madri e dei padri di questo mondo è generata da Lui. Se mi meraviglio nel vedere un padre e una madre, e non si finirebbe mai di guardare un padre e una madre, tu dici: sono la pallida copia del Padre, e naufragarmi dolce in questo mare. Amici, vi auguro di conoscere, di amare la nostra famiglia, che è la Chiesa.